Ad alta voce, Valerio Binasco legge Una notte del 43 di Giorgio Bassani. Quinta puntata. Perché sulla questione fosse detta l'ultima parola, fu necessario attendere ancora qualche anno. Nel frattempo ciascuno ebbe modo di riprendere il proprio posto. Pino Barillari ricominciò a passare buona parte delle sue giornate sedendo davanti alla solita finestra, ma diventato aggressivo e ironico adesso, con un binocolo da montagna sempre a portata di mano, implacabile nella funzione che pareva essersi assunto di controllore perpetuo del passaggio lungo il marciapiede di fronte. E tutti gli altri, i vecchi abituè, insieme coi giovani delle leve più recenti, sciagura compreso, si intende, il cui processo era finito in una soluzione piena, tornati a dividersi i tavolini e le seggiole del caffè sottostante. Nel 48, appena dopo le elezioni del 18 aprile, Anna Barilari lasciò la casa del marito, cominciando subito le pratiche per ottenere la separazione legale. La gente supponeva che sarebbe tornata a vivere presso il maresciallo Repetto, in famiglia, ma si ingannavano. Andò invece ad abitare da sola in un piccolo appartamento in fondo alla Giavecca, dalle parti della prospettiva. Due finestre che davano, protette da grosse inferriate sporgenti, direttamente sul marciapiede. E sebbene avesse ormai quasi 30 anni, e formosa com'era, ne dimostrava anche di più, prese di nuovo a girare in bicicletta come da ragazza, quando si tirava dietro i compagni di scuola più fitti delle mosche, e in città erano ancora numerosi quelli che se ne ricordavano. Iscrittasi all'Accademia di Disegno di Via Romei, portava maglioni accollati che le mettevano in evidenza il petto prepotente, capelli biondo canapa buttati lunghi all'indietro, si truccava in faccia più che mai, sognava probabilmente di imitare le ragazze esistenzialiste di Parigi e di Roma. In realtà faceva la vita, altro che balle, garantiva chi era in grado di saperlo. Se era vero che i ristoranti e le trattorie di San Romano, lei il lunedì li frequentava al chiaro scopo di pigliar su qualcuno del forese venuto a Ferrara per il mercato. Ogni tanto spariva, comunque, per periodi di tempo che variavano da una settimana a 20 giorni. Quando rispuntava, non era raro che l'accompagnasse un'amica pescata chissà dove, insieme con la quale poi, talvolta durante un mese intero, la si vedeva camminare a braccetto su e giù, suscitando ondate sempre rinnovantisi di interesse. Chi poteva mai essere quella brunetta dagli occhi maliziosi che stava adesso con l'Anna? Si sentiva domandare da tutte le parti. Non era mica una bolognese, non era mica una romana. E quell'altra là, con gli occhi celesti, i lineamenti fini ed esangui, le scarpette senza tacco e quasi pareva senza suola, non era mica per caso una fiorentina, o magari una straniera. Per sincerarsene non mancavano mai volonterosi che la sera stessa si spingessero fino in fondo alla Giovecca. Arrivati all'altezza dell'appartamento occupato dall'ex signora Barilari, costoro andavano a battere discretamente ai vetri, d'inverno per farsi aprire, ma a volte d'estate semplicemente per scambiare due chiacchiere tra marciapiede e finestra, di modo che a capitare da quei paraggi intorno a certe mezzanotti di luglio o di agosto era abbastanza normale scorgere 3 o 4 uomini fermi in gruppo a parlottare con l'Anna e con l'amica di turno. Si trattava in genere di tipi fra i 30 e i 40, non pochi ammogliati con figli. Conoscevano l'Anna da quando era ragazza, alcuni di loro essendo stati addirittura suoi compagni di liceo, col risultato che più tardi, quando verso l'una o le due riapprodavano al caffè della borsa e stanchi, accaldati, con le maniche delle giacche di tela rimboccate, crollavano giù a sedere, era discorrendo e raccontando soprattutto di lei che facevano venire l'ora di andare a letto. Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour, qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service, qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre la mienne. Non era davvero un carattere comodo, quello dell'Anna, sospiravano. La cosa dipendeva forse dal fatto che fino a poco tempo prima era stata una signora per bene, o forse perché loro stessi non riuscivano a sciogliere i nodi di certe complicazioni della mentalità femminile. La realtà è che con lei non si sapeva mai quale tono prendere. A parlarle dal marciapiede sbatteva ogni momento la finestra in faccia, salvo però riaprirla di lì a qualche minuto, per poco che uno, invece che stringersi nelle spalle e mandarla al diavolo, tornasse a bussare ai vetri e a fischiare. Ma anche a entrarle in casa la musica non cambiava. Alla fine, per esempio, non era mai chiaro se bisognasse o no insistere per farle accettare le 1000 lire. E i lunghi preludi sentimentali a cui si veniva obbligati, e il disagio che procurava la sua chiacchiera fitta, continua, instancabile. Stava ancora rivestendosi ed eccola già che tornava a raccontare di sé, di Pino Barilari, degli anni che aveva trascorso insieme col marito nell'appartamento sopra la farmacia, delle ragioni per le quali si era sposata, di quelle che poi l'avevano indotta a separarsi legalmente. Lei e il marito e lei, non parlava d'altro. Dopo che gli era giunta la paralisi, spiegava, aveva cominciato a tradirlo con questo e con quello, già che lui era una specie di bambino malato, oppure una specie di vecchio, mentre lei una donna proprio normale. La confusione della guerra con gli allarmi, i bombardamenti, le paure di ogni genere aveva di sicuro contribuito più tardi a far precipitare le cose. Però gli aveva sempre voluto bene lei a lui, come a un fratello minore. Se gli metteva le corna, gliele metteva di nascosto, con tutte le precauzioni possibili e nemmeno tanto di frequente. Era così tardi quando si abbandonavano a riportare questi discorsi di Anna Barilari, corso Roma talmente vuoto e silenzioso che le loro voci risuonavano come dentro una sala, più che qualche fischio di treno in distanza e ad ogni quarto i colpi che l'orologio del castello lasciava cadere dalla cima della torre di fronte. Altro non si sentiva. Ci fu una notte, tuttavia, verso la fine di agosto del 50, che uno riferì qualcosa di nuovo. Poco prima, cominciò a raccontare sottovoce, lui si trovava in casa dell'Anna insieme con due amici comuni, il tale e il tal'altro. Quella sera lei era stata noiosa in modo speciale, tanto che a un certo punto, infastidito che ripetesse una volta di più le solite tiritere, l'aveva interrotta. «Bel modo che avevi di voler bene a tuo marito», aveva detto ridendo. «Gli volevi bene e poi andavi con chi ti faceva comodo. Sei sempre stata una gran casinara, va là». Era successo il finimondo. «Vigliacchi, spudorati, maiali», si era messo a urlare. «Fuori da casa mia!» Sembrava una belva. Anche l'altra ragazza, una di Modena, gridava che pareva che le tirassero il collo. Ma poi, a sentirsi chiedere scusa, si erano calmate tutte e due abbastanza presto. Ed ecco, più o meno, quello che subito dopo era venuto fuori dalla bocca dell'Anna. A Pino lei aveva voluto sempre bene, aveva ricominciato a dire nel tono lamentoso che le era abituale. E anzi, per qualche anno, l'accordo fra loro era stato perfetto. da quando non poteva più camminare, lui passava le giornate seduto davanti alla finestra del tinello, risolvendo a uno tutti i giochi della settimana enigmistica e degli altri giornaletti del genere di cui era avidissimo. Non aveva niente da fare, e ciò spiega perché, a forza di esercitarsi, fosse diventato di una bravura eccezionale in questo tipo di passatempi. E così, perché lei si rendesse ben conto di come era bravo, certe volte si trascinava sulle grucce fino alla scaletta chiocciola comunicante col retrobottega e di lassù, sporgendosi dalla botola, si metteva a chiamarla con tanta impazienza e insistenza che lei doveva piantare immediatamente la cassa, salire di sopra e aspettare che lui, con gli occhi che gli brillavano di contentezza, si decidesse a rivelarle la soluzione del problema. E era lei che gli faceva le lunghe serie di iniezioni a cui per la malattia doveva assoggettarsi, lei che lo metteva a letto ogni sera prima delle 9. Che importanza aveva se non dormivano più assieme? Anche prima della malattia lui a dormire assieme non ci aveva mai tenuto molto. Da pensare anzi che a un dato momento fosse più che soddisfatto di tornarsene da solo nello stanzino che occupava da ragazzo. No, due potevano benissimo dormire assieme e non amarsi affatto. Era stato comunque, a partire dalla notte del 15 dicembre 1943. Che tutto fra loro era cambiato di colpo. Dopo averlo messo a letto come ogni sera, lei era uscita di casa, sicurissima di poter rientrare di lì a un'ora al massimo. Con la scusa della farmacia si era fatta dare un salvacondotto valido per eventuali coprifuochi. Non era passata nemmeno mezz'ora, invece, che era cominciata per le strade quella gran sparatoria che l'aveva costretta a rimanere nella casa dove si trovava fino alle 4 del mattino. Finiti gli spari, si era precipitata fuori, dopo aver risalito la giovecca tutta di corsa. Soltanto quando era arrivata all'angolo di Corso Roma si era fermata un attimo per riprendere fiato, e mentre sostava affannata sotto un arco del portico del teatro comunale, proprio di lì, improvvisamente, ammucchiati lungo il marciapiede di fronte alla farmacia, aveva veduto i morti. Ricordava ogni particolare della scena come se l'avesse ancora adesso davanti agli occhi. Rivedeva Corso Roma tutto vuoto, sotto la luna piena, la neve indurita dal gelo, sparsa come una specie di polvere brillante su ogni cosa, talmente limpida e chiara l'atmosfera da poter leggere le ore dell'orologio del castello, le 4:21 esatte, e i cadaveri, infine, che dal punto dove lei li guardava somigliavano a tanti fagotti di stracci, e invece erano corpi umani, l'aveva capito subito. Senza rendersi conto di quello che faceva, si era staccata dal portico del teatro comunale, avanzando verso di loro allo scoperto. Era stato a mezza strada quando, ormai in piena luce, si trovava a 5 o 6 metri dal primo mucchio dei fucilati, che il pensiero di Pino le aveva attraversato la testa. Allora si era voltata e Pino era lassù, immobile dietro i vetri della finestra del tinello, un'ombra appena visibile che la guardava. Erano rimasti così, a fissarsi per qualche secondo, lui dall'oscurità della stanza, lei dalla strada, e senza sapere lei quello che avrebbe potuto fare. Finalmente si era decisa ed era entrata in casa. mentre si arrampicava su per la scaletta a chiocciola, cercava di pensare a quello che le convenisse dire. In fondo, non le sarebbe stato difficile inventare una balla qualsiasi, comportandosi in modo che Pino ci credesse. Lui, in fondo, era un bambino e lei la sua mamma. Se non che Pino, quella volta, non le aveva permesso di inventare nessuna balla. Quando lei era entrata in Tinello, Pino non ci stava già più. Stava invece nella sua cameretta, a letto, con la faccia rivolta verso la parete e con le coperte tirate fin sopra le orecchie. E a giudicare dalla maniera come respirava, si sarebbe detto che dormisse. Svegliarlo, è vero, questo avrebbe dovuto fare. Ma se poi dormiva sul serio e lei poco prima dalla strada non avesse avuto che un'allucinazione, nel dubbio aveva richiuso adagio la porta ed era andata a buttarsi sul letto in camera sua. Pensava che tra poche ore, se non dalle labbra di Pino, almeno dalla sua faccia, la verità l'avrebbe saputa. E invece no. Non una parola da parte sua, non uno sguardo che le permettessero di capire, né quella mattina né mai più. E perché tutto questo? Perché? Se quella notte lui era sveglio, perché non aveva mai voluto ammetterlo? Aveva paura? Ma di chi? O di che, con precisione? In apparenza non era cambiato niente nei loro rapporti, tranne che da allora in poi, essendogli venuta la mania del cannocchiale, consumava le giornate così, sorvegliando il marciapiede di fronte e senza più chiamarla di sopra come una volta per mostrarle come era bravo a risolvere i cruciverba e i rebus a frase. Ridacchiava, borbottava fra sé che fosse diventato pazzo. Poteva darsi con la malattia che aveva. Ma d'altra parte, com'era possibile continuare a viverci insieme senza che poco a poco anche lei finisse con l'impazzire? Shine on your crazy diamond.